Ritroviamo Eleonora Guzmano per parlare con lei dello spettacolo La durata di un inverno a Carrozzerie Not a Roma, unica data 29 marzo. Eleonora, benvenuta. Grazie, Allora, si tratta di una drammaturgia collettiva, diciamo subito questo. allora noi siamo la compagnia Focus 2, lavoriamo a Roma da 4 anni e sì, questa è una drammaturgia collettiva nel senso che noi lavoriamo fondamentalmente su un tema che sviluppiamo nel corso dei vari spettacoli che sono le dinamiche di potere tra donne. Quindi relazioni femminili incentrate, diciamo, sulle relazioni personali dove intercorrono problemi e varie dinamiche di diverso tipo. E in questa situazione abbiamo chiesto appunto a Giulia Lombezzi di coordinare il lavoro, che appunto qui firma la regia, e abbiamo fatto anche un'opera appunto di scrittura con lei, per cui gli abbiamo proposto un tema a partire appunto da questa dinamica di potere femminile. In questo caso nel mondo della prostituzione, quindi abbiamo immaginato un'amicizia nata all'interno di una piccola stanza dove due prostitute appunto condividono la stanza perché i clienti le incontrano nella stanza sopra e quindi sono trovate a convivere per un inverno. E quindi da una, diciamo, dimensione di ostilità si tratta, diciamo, di un percorso molto lento per arrivare poi a un'amicizia. E la drammaturgia collettiva sì, è nata con lei, nel senso che noi le abbiamo proposto appunto questo soggetto e lei ha iniziato uno studio, cosa che noi avevamo già fatto prima, e poi ci ha proposto una scaletta insieme tramite improvvisazioni, abbiamo scritto il testo, sono nati due personaggi, ormai da 2 anni esistono, e basta. Un lavoro di cui siamo molto orgogliose, il testo ha vinto anche il premio Donne Teatro 2016. È nato comunque anche da un'amicizia personale, diciamo, tra me e Ania in primis, che siamo le fondatrici del gruppo, e poi con Giulia che si è unita. Ecco, l'idea di partenza com'è nata? Ma diciamo che, come ti dicevo, appunto, noi lavoriamo, siamo in due nella Sì. compagnia, poi per ogni spettacolo ampliamo, diciamo, l'organica o attoriale o appunto registica, eccetera. Già nel secondo spettacolo che si chiama La Collezione avevamo individuato questo tema appunto della tratta delle bianche, ossia delle ragazze dell'est che vengono in Italia, però ci interessava trattarla appunto non dal punto di vista tanto del cliente, quanto proprio delle relazioni che intercorrono tra le donne che fanno questo lavoro. E nella collezione avevamo individuato la relazione più che altro tra maîtresse o madre e ragazzina prostituta, se così vogliamo, però in un'ambientazione molto onirica, è uno spettacolo molto diverso dalla durata dell'inverno. Però è un corto di 30 minuti e quindi volevamo continuare a indagare questo tema sotto un altro aspetto, un'ambientazione un po' più verosimile e fare uno studio anche un sociologico più approfondito. E quindi per questo abbiamo proposto questa cosa a Giulia. E poi lei, diciamo quasi per gioco, dato che scusami, io sono di Torino e Ania è russa. Nella collezione usavamo anche questa cosa, comunque essere straniere, eccetera, eccetera. E Giulia invece ci ha proposto in questo spettacolo di invertirci le parti, per cui io faccio la ragazza rumena, invece Ania, che è russa, fa la romana d'origine. Quindi è anche molto divertente questa cosa. Diciamo che tutti dopo lo spettacolo vengono subito a chiederci: ma chi è Ania? Chi è Eleonora? È un piccolo sketch, diciamo. Senti, leggo trentesima replica. Come ha viaggiato questo spettacolo e anche se si è modificato nel corso del tempo? Allora, lo spettacolo sì, ha viaggiato parecchio, nel senso che noi abbiamo debuttato in Puglia ormai 2 anni fa e poi siamo state a Roma inizialmente allo Studio 1 dove avevamo partecipato sempre al concorso Pillole, come era già successo anche per lo spettacolo Il Capitano di cui ti parlai. Sì. E sì, lo spettacolo si è modificato molto, diciamo che soprattutto per quanto riguarda un lavoro di drammaturgia collettiva e di drammaturgia contemporanea, c'è una prima fase che è la scrittura dello spettacolo e la prima messa in scena, e poi la seconda, che è quella più importante, è il contatto con il pubblico, che comunque ti dà subito una risposta molto netta rispetto a quelle cose che funzionano e quelle che non funzionano. Lo spettacolo sinceramente è piaciuto molto subito perché è molto emotivo, diciamo, noi cerchiamo molto un rapporto in questo senso con il pubblico, di l'importanza della trasmissione di un messaggio. Questa cosa arrivava subito, però c'erano dei passaggi che forse andavano limati, o comunque dovevamo entrare più nello specifico di quello che volevamo dire. Quindi, diciamo, nel corso delle prime 10 repliche più o meno abbiamo sedimentato ben bene questa cosa, e poi lo spettacolo ha cominciato a viaggiare sempre di più. Senti, in relazione ai due personaggi che interpretate, è nato tutto dalla vostra interazione e, come dicevi, improvvisazione, oppure c'è stato anche un lavoro di documentazione? No, abbiamo fatto un grande lavoro di documentazione. Anche Giulia, nel farci questa proposta appunto di inversione dei ruoli e anche di proporci il personaggio rumeno, è stato sia perché appunto purtroppo le ragazze rumene che fanno questo lavoro in Italia sono molte, quindi si era documentata, e poi proprio per quanto riguarda lo studio di quella che è la vita personale di questi personaggi, c'è stato un grande lavoro di documentazione. Diciamo che noi parliamo di un'amicizia ed è questo il nostro focus, quindi l'eredità che ogni persona lascia a chiunque incontri, no? Nel bene e nel male, cosa ci rimane delle esperienze che facciamo e degli incontri. Però per parlare di questo ovviamente parliamo anche di quella che è la loro vita, no? Quindi abbiamo fatto un lungo lavoro di studio rispetto a quella che è proprio la vita personale delle prostitute, come vivono, tutto quello che diciamo purtroppo è vero, nel senso, a partire dal fatto che si lavano col detersivo per i piatti, tante cose che noi cerchiamo di mettere in scena, tra virgolette, con leggerezza, perché poi nella vita di tutti i giorni abbiamo visto diversi documentari, non è che una persona che vive una condizione triste è sempre triste, cioè trova sempre un modo per essere felice, per magari per divertirsi, no? Per sopravvivere. Sì. Però il lavoro comunque è stato molto molto serio. E poi abbiamo visto questo documentario a cui siamo molto affezionate, che è la storia appunto di questa ragazza che si chiama Magda, che è rumena, e abbiamo preso molto della sua esperienza, perché appunto lei chiama i bambini su Skype, ha una fede molto forte, perché molte ragazze rumene sono molto religiose solitamente, no? E questo è anche un aspetto che abbiamo portato in scena. Senti, rispetto alla compagnia Focus 2, la stagione come proseguirà poi? Adesso in realtà noi siamo in lavorazione per il nostro quarto spettacolo, che debutterà invece in Puglia il 25-26 maggio. E lo spettacolo si chiama Apparatus Matri, che appunto significa, è un titolo latino, significa la macchina della madre, ed è una rielaborazione che stiamo facendo da un annetto, ci stiamo lavorando, dalla casa di Bernarda Alba di Garcia Lorca, ed è una riscrittura che si svolge invece negli anni 90 in Italia, in un paese non identificato del sud Italia, e anche lì appunto torniamo sul nostro tema, appunto la dinamica di potere femminile all'interno di una famiglia dove c'è una madre e tre figlie, diciamo nell'ambito comunque del post rivoluzione sessuale, quindi mentre Garcia Lorca parla di una società profondamente cattolica, radicata e occludente, noi parliamo, se vogliamo, del contrario, cioè di come l'emancipazione allo stesso tempo a volte possa essere un altro difficile fardello che noi donne di oggi ci portiamo addosso, no? Questo detto così è un po' semplicistico, però bisognerebbe entrare nel merito. Okay. Comunque anche lì tocchiamo un tema caldo. E anche lì magari avremo modo di parlarne. No. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Carrozzerie Not a Roma per il 29 marzo, la durata di un inverno della compagnia Focus 2. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille, ti aspettiamo allora. Ciao. Ciao, ciao, ciao.